Iniziamo così su Radio Live Session a tenervi compagnia col programma Dance Revival. Iniziamo subito DJ Vulpis Demon e Billy Moore con Up and Down. Up and down on my body, make me feel your sass daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down on my body, make me feel your sass daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down, up and down, down, down, up and down, down, down, up and down, down, down. Hey, baby, I'd like to see you move. Come on, free your body and dance into the groove. Oh, my guy, do everything you want. If we'll be together, baby, all night long. Up and down from my body, make me feel. You said, daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down from my body, make me feel. You said, daddy, move it on, shake it on, are you ready? You can kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Says, daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down from my body, make me feel. Your size, daddy, move it on, shake it on, are you ready? You can kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Session Billy Moore con Up and Down. Allora iniziamo subito e andiamo avanti col Dance Revival, gli Eiffel 65 con Lucky. Yeah. Mystify Like. Siete sempre in compagnia di Radio Live Session ed esco, andiamo ad ascoltare La Belle con Ping Pong. Con Ping Pong, anno 2001, e adesso passiamo a Magic Box con Carry On. Siete sempre in compagnia di Radio Live Session, questo è il programma Dance Revival. Stranger melodies. Now that I am aware. Jukebox con Carry On, era sempre l'anno 2001 e adesso andiamo ad ascoltare un altro grande successo. Vi ricordiamo che siete sempre in compagnia di Radio Live Session, loro sono i Brooklyn Bounce con Bass, Beats and Melody. Brooklyn Bounce is your destination. Melody, loro erano i Brooklyn Bounce su Radio Live Session. Passiamo subito a un altro grande successo del 2001, Unconditional con Feels Alright. You really gonna join? Right, Unconditional. Vi ricordiamo che siete sempre in compagnia di Radio Live Session. Questo è il programma Dance Revival. Adesso facciamo un salto nell'anno 2005. Prezioso, Marvin con Voglio Vederti Danzare. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Danza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza.

Jason Ames con Yesterday, anno 2005, siete sempre in compagnia di Radio Live Session col programma Dance Revival. Facciamo un salto indietro, anno 2001, Carolina Marquez, Sexo Sexo. Sexo. Maniacal del sexo se vuelve arte. Caliente, ¿quieres venir conmigo? Quiero masturbarte con mi imaginación. Amor. Ah, ah, ah, ah, ah. Fantasía. Atrevido, es sexo. Carolina Marquez con Sexo Sexo. Vi ricordiamo che siete sempre in compagnia di Radio Live Session, questo è il programma Dance Revival. E adesso passiamo a un'altra grande hit del 2001, Deep Swing con In The Music. Su Radio Live Session In The Music, anno 2001. Adesso facciamo un salto all'anno 2005. Ellen e Danny J con Il Gioco dell'Amore. È la passione, è la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che ti muove, facendo il gioco dell'amore, amore. Inizia il gioco. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore. Amore.

bla, Gigi D'Agostino, era l'anno 1999 e adesso facciamo ancora un salto indietro, proprio Dance Revival a posto, andiamo negli anni 1995, Robert Miles con Fable. con Fable e in chiusura su Radio Live Session. Questo qua è stato il programma Dance Revival anni 90 e 2000. Radio Live Session vi dà appuntamento a domani pomeriggio dalle 15 alle 16 con la musica Hard Style e dalle 16 alle 17. E ancora un buon ascolto, un saluto a tutti quanti coloro che sono connessi. E chiudiamo così col programma Dance Revival con un disco, un successone di Gigi D'Agostino targato anno 1998, Elisir. Buonanotte da Radio Live Session.